Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni e siamo in diretta da Santa Margherita Ligure, dove è iniziata questa mattina la prima giornata di lavori del convegno annuale dei giovani imprenditori di Confindustria. Il titolo siamo in prima linea, con un filo spinato molto evocativo nella cartellonistica, nella brochure: Europa, innovazione, legalità e principi da difendere. Ne hanno parlato oggi, tra gli altri, oltre il Presidente dei giovani imprenditori, che avremo il nostro ospite tra pochi minuti, Jacopo Morelli, il numero uno dell'ENI Paolo Scaroni, ma anche il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli, vari altri interventi su questo, interventi che sono arrivati anche dalla fondazione, dal convegno annuale delle fondazioni bancarie dell'ACI, che tiene invece, si è tenuto a Palermo. Anche di questo parleremo, i temi sono sempre quelli di attualità: rischio stallo nel governo, stallo sul fronte delle riforme dopo quello che è successo ieri, parzialmente rientrato, per carità. Domani sarà qui anche il ministro Passera. E dall'altro lato invece forte preoccupazione per l'andamento del ciclo economico, disoccupazione ma non solo, e attese, a questo punto solo di parlare, per quello che sarà un vertice fondamentale il 27 giugno prossimo. Capi di Stato di Governo a Bruxelles, un Consiglio europeo per cercare di uscire dal cul-de-sac in cui l'area euro si è infilata, grazie anche, tanto sapete che lo dico, alla Germania, grazie soprattutto alla Germania negli ultimi mesi. Le borse in primo luogo, però, meno 0,46% il FTSE MIB in questo momento, meno 0,14% Bruxelles, meno 0,60% Parigi. Londra invece guadagna lo 0,56%, l'America in questo momento è leggermente positiva, il Dow Jones più 0,11%, il Nasdaq più 0,33%. Sta parlando, ha iniziato a parlare Barack Obama, un discorso che da quello che sono state le anticipazioni dovrebbe di nuovo riguardare l'Europa. Le preoccupazioni hanno riempito le pagine di tutti i giornali in questi giorni. L'America è molto preoccupata per un'Europa che non sembra in grado di uscire da questa situazione e teme che il vaso di coccio europeo poi blocchi quel poco di ripresa che si sta palesando. Anche di questo parleremo nella seconda ora del programma. Le lettere che continuano ad arrivare a disperati mai, noi non ci dimentichiamo, le stiamo solo organizzando e raccogliendo. L'indirizzo resta disperati mai @radio24. Per quello che riguarda invece i mercati, torniamo sui mercati. In questo momento l'euro è sotto quota 1,25, 1,24,76. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dai titoli, visto che ricordavamo l'indice. Molto bene oggi Enel Green Power più 3,80, Enel più 3, Telecom più 3, A2A più 1,20, Snam più 1,15. Bene l'energia, ne ha parlato oggi anche Paolo Scaroni, di gas e di Snam Rete Gas, lo ascolteremo più avanti. Terna più 1,10%, sul fronte opposto invece Monte dei Paschi meno 3,40%, Fiat Industrial meno 3% come Banco Popolare, Intesa San Paolo meno 2,40%. Come Mediobanca, il 2,15 lo perde Prismian, ma anche Exor e Fiat Auto, che si chiama Fiat adesso, Saipem meno 1,90, come la Popolare Emilia Romagna e Unicredit. Chiudiamo con Finmeccanica, Azimut, Buzzi Unicem e Salvatore Ferragamo, che perdono tutte 1,5%, Pirelli meno 1,30, con l'1% l'Occidente Tenaris, ma anche Atlantia. Oro in netto calo, $1,568 l'oncia, per carità siamo sempre su livelli altissimi ma lontani dal record. Petrolio $82,31 al barile, meno 3% le quotazioni prima o poi. Adesso è capito che questi sono i contratti future, ma qualche mese vedremo la benzina calare e anche il gasolio, no? Perché adesso il petrolio è più basso. Io seguo il ragionamento che fanno sempre i petrolieri, quindi mi attendo che fra qualche mese, quando i contratti con cui si è comprato il petrolio adesso diventeranno effettivi, il petrolio, la benzina e il gasolio caleranno. Siamo serafici su questo. Di energia, dicevo, ha parlato anche Paolo Scaroni questa mattina qui a Santa Maria Ligure. Ascoltiamo al microfono la nostra Anna Marino sul tema dei pagamenti delle forniture di gas alla Grecia. A noi piace molto essere pagati, vorrei far notare, anzi lo considero non essere pagati il modo peggiore per perdere i propri soldi. Mm-hmm. Però detto tutto questo, le quantità che vendiamo sono limitate. Noi abbiamo due società di distribuzione in Grecia, nella zona di Salonicco, quindi monitoriamo la situazione. Non mi sembra che per il momento ci sia nulla di particolarmente preoccupante. Nel frattempo dal Giappone arriva una buona notizia sull'andamento economico. A gennaio e marzo l'economia giapponese è cresciuta più delle attese, invece che un 1% ha fatto l'1,2%. E invece dall'Europa arriva una buona notizia ancora una volta per la Germania, nel senso che quest'anno la Germania invece che fare più 0,6 farà più 1%. E l'anno prossimo invece rallenterà un po', invece che più 1,8 più 1,6%, dimostrazione che questa crisi, per come viene gestita, colpisce quasi tutti i paesi più importanti dell'euro, tranne la Germania, che invece ne ha dei grossi vantaggi. Ha le imprese che si finanziano a costi irrisori, praticamente il tasso di finanziamento è sotto lo zero, a differenza delle imprese italiane, spagnole e anche francesi. A proposito di Spagna, la Spagna dovrebbe chiedere aiuti, i famosi aiuti per il sistema bancario. La Spagna dovrebbe presentare una richiesta di aiuti all'Unione Europea nel corso del fine settimana. Già domani una teleconferenza tra i ministri delle finanze dell'Eurogruppo dovrebbe anticipare il tema. La Commissione Europea però non ha confermato e dice di non avere ufficialmente notizie di una richiesta di aiuti finanziari da parte della Spagna. Stessa dichiarazione anche da parte di Angela Merkel. Ho un leggero ritorno in cuffia, grazie. Stessa dichiarazione anche da parte di Angela Merkel, che ha detto la Spagna non ha ancora chiesto aiuti. Per quello che riguarda invece l'Italia, ma sempre sul fronte del debito, c'è un nuovo record per i titoli di Stato in pancia alle banche italiane. Ad aprile infatti le banche italiane avevano, il dato di Banca d'Italia, 295 miliardi di euro di titoli di Stato italiani, di cui 160 miliardi di BTP, 50 miliardi di BOT, 23 miliardi di CTZ e 50 miliardi di CCT. Continuano ad aggiornarsi le previsioni su quanto brusca sarà la frenata dell'economia italiana quest'anno. Il governo continua a tenere una stima del meno 1,6%, c'è l'Ocse, Fondo Monetario, arrivano invece quasi al 2, 1,9. Oggi lo Svimez ha detto sarà meno 1,8, ma la cosa preoccupante è che il calo del PIL sarà del 3%, quindi quasi doppio rispetto al resto. E il Sud Italia, dice sempre il rapporto Svimez, ha perso a seguito delle quattro manovre anticrisi del 2010-2011 due punti percentuali di PIL contro lo 0,8% perso al nord. Ad aprile la produzione industriale segna, lo so che è un'altra brutta notizia, che ci devo fare, un meno 9,2%, è peggiore nella produzione industriale italiana da quando è iniziata la crisi, o meglio dal novembre del 2009. E adesso arriveremo anche a, non dico le ricette, perché qua di ricette non se ne vedono tante in giro, ma insomma almeno le analisi, le proposte su qualcuno ci scrive che ci sentite a tratti, rivolgo questa indicazione, scrivete a 349-238-6666 alla parte tecnica della radio, mi confermate che invece la messa in onda è tranquilla, per cui io vado avanti, grazie. Parleremo adesso di come affrontare alcuni temi, alcune difficoltà. Certo è che torna anche una rubrica che in realtà non vorremmo vedere, ma è la rubrica della altri della crisi che alcuni proprio non vedono. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E ancora una volta, diciamo, la nostra rubrica Ma cos'è questa crisi vede in pole position la Regione Sicilia. Giuro che non ce l'abbiamo con la Regione Sicilia, è che ci fornisce sempre una marea di notizie. Abbiamo un paio di Bolzano, di Trento, del Friuli. Però insomma, nominato qualche settimana fa dal governatore Lombardo alla presidenza della società Italia Lavoro Sicilia, l'ex deputato regionale del Movimento per l'Autonomia, Tony Rizzotto, ha dovuto rinunciare all'incarico perché è incompatibile con il suo impegno di dirigente comunale. E qui uno dice, bella notizia, finalmente qualcuno che rinuncia e che accetta di rinunciare alla doppia carica. Visto che sei consigliere comunale non puoi fare anche il presidente della società Italia Lavoro Sicilia. Perfetto, ma mica tanto, perché Lombardo, il presidente della Regione Sicilia, ha nominato la fidanzata di Rizzotto, Salvina Profita, psicologa, 40 anni, Italia Lavoro Sicilia. Immagino che l'aspetto, diciamo, dei transfert dell'inconscio verrà ben analizzato. Un applauso, il primo applauso di questa settimana a Raffaele Lombardo per aver nominato la fidanzata di Tony Rizzotto. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. E poi, oltre il danno, la beffa. Perché mentre c'è tutta una piccola casta, la politica non me ne frega nulla se poi si arrabbia il governatore Lombardo che ci continua a scrivere, va bene così. Però, legata alla politica, il concorso di oggi a Catania per 250 posti all'Agenzia delle Entrate ha visto fin dalle 9:30 di mattina la presenza di circa 3.000 candidati che erano in piedi alle 9:30. Beh, sapete che è successo? Mentre nelle altre città dove si svolgevano i questionari, uno va lì per fare un concorso, di solito c'è un questionario, non è che recita una poesia. Ebbene, mentre nelle altre città i questionari c'erano, a Catania alle 2:30 di pomeriggio dovevano ancora essere consegnati a 3.000 candidati i questionari da riempire, gente che lì dalle 9:30, vergognatevi, non so se dipende dall'Agenzia delle Entrate o dalla sede di Catania, vergognatevi veramente, perché non è possibile trattare le persone in questo momento. E a un certo momento, visto che è scoppiato un caos e ci mancherebbe altro, a un certo momento per una voce dall'altoparlante circa mezz'ora fa ha annunciato il presidente della commissione di concorso regionale, ha reso noto che il concorso di Catania è stato sospeso. Un applauso anche all'Equitalia di Catania. Allora, per non arrabbiarci troppo, cerchiamo di occuparci di temi, non che non siano seri quelli, perché si sente a tratti. Io continuo a girare questa informazione alla parte tecnica della radio e molti ascoltatori ce lo segnalano, non so cosa fare. All'eco si sente male, ci sarà un problema di frequenza, non dipende, anche su internet si sente a tratti, vabbè. Io giro la cosa a chi di dovere, ma dicevo, il 42esimo convegno di Santa Margherita Ligure, siamo in prima linea, Europa, innovazione e legalità, nel giorno in cui arriva il dato sulla produzione industriale ad aprile, meno 9% è il peggior anno dal 2009. Sentiamo, anzi abbiamo già sentito nei giorni scorsi Luca Polazzi, che è intervenuto oggi, responsabile del Centro Studi Confindustria, su questo, però sentiamo Paolo Scaroni, quindi l'amministratore delegato dell'ENI, perché ha dato una lettura, diciamo, come indicatore di riferimento riguardante il consumo del gas, e ha detto, insomma, leggendo questi dati attraverso il gas è chiaro che più le industrie marciano, più consumano elettricità e gas. Beh, si ha una conferma che c'è una frenata in corso. Questi dati li leggo attraverso i consumi di gas, che insomma sono un proxy di questi dati. Effettivamente i consumi sono stati molto bassi nel mese di maggio e nel mese di aprile. Allora, certo, l'economia non sta andando bene, Sono stati anche 2 mesi, uno con un giorno di vacanza in più, mi pare, quindi con un giorno lavorativo in meno. Certo, è la prova provata che stiamo attraversando un momento difficile. Io ho l'impressione che fino a che la zona euro non trova un suo assetto, è un po' difficile che un paese membro dell'euro trovi la soluzione da solo. E poi gli interventi di questa mattina. In primo luogo vorrei, visto che abbiamo dedicato ancora uno spazio e poi vi torneremo, vorrei farvi ascoltare cosa ha detto il presidente Confindustria Giorgio Squinzi a proposito dei giovani degli imprenditori in estrema difficoltà, oltre a quelli purtroppo e ahimè deceduti in Emilia, nella parte anche, diciamo, della bassa Lombardia. Ha ricordato Squinzi la grande capacità di reazione mostrata dalle popolazioni, quindi anche dagli imprenditori di quella regione. Innanzitutto vorrei iniziare questi 2 giorni con un pensiero che vorrei rivolgere con la mente e col cuore a tutti i nostri colleghi imprenditori, alle imprese, ai lavoratori e alle popolazioni che in Emilia stanno vivendo con grande... Stanno vivendo con grande dignità, con grande coraggio, un momento veramente drammatico, una situazione veramente inaspettata, imprevedibile e che ci sta colpendo veramente moltissimo. Però c'è anche da questo, io ho tratto, sono stato l'ultimo lunedì a Modena, per l'Assemblea di Modena, una reazione veramente straordinaria. Ecco, questa voglia di fare, di operare, di essere imprenditori, questo senso di solidarietà che ci sta unendo tutti, è una cosa che mi ha veramente aperto il cuore e credo che veramente vada sottolineata in modo particolare. Così appunto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che poi, per quello che riguarda anche le polemiche di ieri, le tensioni in Consiglio dei Ministri, ha detto: attenzione, il tempo delle riflessioni ora è scaduto, è il momento del fare. E ha poi aggiunto: basta con le polemiche, noi daremo una mano e supporteremo tutto lo sviluppo tutta l'attività del Ministero dello Sviluppo e tutta l'attività per le politiche sulla crescita. Sentiamo. Non possiamo dimenticare che l'imprenditore è un uomo del fare. Sarebbe bello che la platea degli uomini del fare si allargasse anche ad altre categorie sociali, perché l'Italia ha bisogno, un bisogno straordinario di fare con intelligenza, con buon senso, con determinazione. E queste sono qualità che non ci devono mancare nel modo più assoluto. Ecco, io credo che ora il tempo delle analisi e delle riflessioni sia irrimediabilmente scaduto. E il tempo del fare è già iniziato, è già partito. Noi dobbiamo agganciarci, non possiamo lasciare grandi spazi, dobbiamo mettercela tutta, perché noi crediamo in questo paese, vogliamo che questo paese ritorni un paese dove è bello fare impresa, un paese dove si può fare impresa, un paese che ritrovi la via della crescita. Un concetto questo ribadito dal presidente Confindustria anche a margine dopo il suo intervento: no a polemiche nel governo, supporteremo ogni iniziativa per lo sviluppo. Ascoltiamo Giorgio Squinzi al microfono della nostra Anna Marino. Onestamente penso che il momento è così difficile, abbiamo talmente tante preoccupazioni che assolutamente non mi sembra che sia il momento di fare delle polemiche. Noi sosterremo tutto quello che il governo farà nella direzione giusta di ritrovare lo sviluppo in questo paese. Su questo lui ci potrà contare sul nostro pieno supporto in modo più assoluto. Allora, Allora, così il presidente di Confindustria, poi ne parleremo appunto con il presidente dei giovani imprenditori. Vorrei però farvi ascoltare cosa ha detto il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli sul disegno di legge sviluppo, quello che ieri ha creato una forte tensione, per essere buoni, con il ministro Passera nel Consiglio dei Ministri, perché non si capisce se c'è o non c'è questa copertura. Grilli ha detto: non c'è nessun ritardo, non c'è nessun problema con Passera. Direi, mi sono abbastanza sorpreso nel leggere i giornali, perché con il ministro Passera, ma direi con tutti i colleghi di governo, sia io personalmente che il Ministero dell'Economia, la Ragioneria, assolutamente un rapporto collaborativo, stiamo continuando a lavorare insieme per trovare le soluzioni migliori per il Paese e per tutti. Quindi direi che la ricostruzione giornalistica, dal mio punto di vista, non rispecchia assolutamente lo stato dell'arte di cosa stiamo facendo e collaborando insieme. Diciamo che l'Italia, come sapete, ha molti problemi, quindi abbiamo tutto ben presente e stiamo nel processo di risolvere, e quindi stiamo ancora ovviamente lavorando. Questo è uno dei tanti importanti provvedimenti di ristrutturazione e riforma del nostro Paese, e quindi la sua complessità richiede un'analisi attenta e collaborativa da parte di tutti. Quindi io non penso che si debba parlare, e non si può parlare di ritardo, è un processo di collaborazione, affinamento di provvedimenti, tra cui questo, che sono importanti in un momento delicato per l'Italia, per l'Europa, per direi l'economia mondiale, quindi tutte le decisioni che prendiamo devono essere fatte di grande. Non c'è fibrillazione nel governo? Molto arrabbiato. Questo però dovete chiederlo a lui. Io dal mio punto di vista non ho assolutamente nessuna evidenza di qualcosa che non sia grande collaborazione e spirito d'intesa. Mamma mia, com'è diventato politico Grillo, è sempre stato, non dimentichiamoci il direttore generale tesoro già ai tempi del ministro Monti, ma insomma, o tutti i giornalisti hanno preso un abbaglio ieri, tutti però, e quindi non è mai successo che Passera abbia minacciato addirittura di andarsene perché mancano i fondi per il DL sviluppo, abbia detto io qua che cosa ci sto a fare, oppure Grilli ha una grande carriera come politico. Vabbè, adesso c'è il metro, la pubblicità, poi invece ragioniamo degli altri temi, perché c'è più di un punto, ahimè, su cui ragionare nel giorno, ripeto, in cui becchiamo un dato sulla produzione industriale che è il peggiore dal novembre del 2009. 349-238-6666 resta il numero per i vostri sms. Nota di servizio: continuate a scriverci che ogni tanto salta la mia voce, io non so che fare, probabilmente c'è qualche problema di collegamento da qui da Santa Margherita con Milano, gli audio invece vanno tutti perfettamente perché vengono mandati da Milano e non da Santa Margherita. Comunque adesso il meteo, la pubblicità e poi ci ha raggiunto in studio il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Jacopo Morelli. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui da Santa Margherita Ligure per la prima giornata del 42esimo congresso dei giovani imprenditori, appunto a Santa Margherita Ligure. La borsa vi do subito e poi invece ne parliamo con il presidente dei giovani imprenditori che ci ha raggiunto qui nei nostri studi. Meno 0,70% alla fine Milano, Parigi meno 0,66%, quindi in linea con Milano. Madrid bene, più 1,70%, probabilmente il mercato scommette che nel weekend, come da molte indiscrezioni, arriverà questa richiesta di aiuto spagnola all'Europa per salvare non tutte le banche. Santander e Banco di Bilbao, Vizcaya, da quello che si capisce, che sono due colossi bancari, non hanno tutti questi problemi. Il problema vero sono le casse di risparmio confluite, regionali e locali, confluite nel gruppo Bankia. Lì c'è di tutto dentro, ma la vera argilla, quella che mina le banche spagnole, è il settore immobiliare. Il boom del mattone in Spagna in questi 10 anni è stato qualcosa di imparagonabile con quello italiano. Hanno costruito troppo, a prezzi troppo alti, c'è una marea di invenduto, le banche, come sempre quando si espongono nel settore immobiliare, sia per le costruzioni, per i prestiti di imprese che per i mutui, poi ci rimettono. L'America più 0,16%, il Nasdaq più 0,42%, Vorrei però, ringrazio in primo luogo il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, quindi chi ci ospita, per averci raggiunto in studio. Buonasera quindi a Jacopo Morelli. Buonasera. Dunque, siamo in prima linea con questo filo spinato che chiaramente in radio non si vede, ma è molto evocativo. Innovazione e legalità in un periodo in cui si dibatte molto di crisi, tenuta dell'euro, ruolo della Germania, zavorra tedesca. Vedremo cosa dirà Barack Obama, che sta parlando in questi momenti, e probabilmente arriverà un altro richiamo all'Europa. Come mai legalità e innovazione? Ad alcuni sono sembrati quasi non così attinenti alla cronaca quotidiana. Beh, allora, questo ci fa piacere, perché il nostro paese ormai è da decenni gestito in situazione di perenne emergenza. Però alla fine di gestire l'emergenza non si lavora mai strategicamente. L'Europa, l'innovazione e la legalità possono sembrare dei concetti molto alti e forse anche lontani, ma coinvolgono tutti i cittadini, qualsiasi livello di responsabilità e mestiere si faccia. E siamo voluti partire da difendere e da ribadire questi principi, perché mai come adesso i giovani, a cui si può togliere tutto meno che la speranza per il futuro, devono anzi imbracciare questo tipo di bandiera, che è necessaria, ripeto, per toglierci da questa situazione oggettivamente non rosea. Allora, oggi, visto che voi parlate ai giovani di giovani, e siete in questo paese sicuramente relativamente giovani, perché ricordo che bisogna avere meno di 40 anni, che in altri paesi sarebbe già un'età in cui diventi Presidente del Consiglio, ma da noi forse riesci a diventare il vice dell'azienda. Dicevo, oggi è uscito un dato interessante dalla vostra mattinata: il 43% dei giovani trova lavoro grazie a familiari e amici. Qui, al di là del fatto che anche quella è una forma di cooptazione, io non ho nulla in contrario rispetto a una segnalazione di una persona di cui mi fido, però è un altro elemento che sembra confermare come l'ascensore sociale in questo paese si sia fermato, cioè tu tendi sempre di più a fare il lavoro del padre e non ad avere uno scatto. Vi preoccupa? Ma certamente, forse l'ascensore sociale in questo paese non è mai partito, meglio, c'è stato a un certo punto nella storia, quando si sono dovuti andare a riempire determinate caselle o si erano andati a creare delle posizioni nuove, per cui era relativamente più semplice. Noi pensiamo che non si possa andare avanti con il network familiare o di conoscenze, ma devono essere create anche delle politiche più attive, tali da orientare e poi indirizzare meglio i giovani verso il lavoro. Sempre per quello che riguarda il ragionamento che si è fatto nel mondo dei giovani, è chiaro che questo è un anno che forse verrà ricordato come uno degli anni peggiori: 10% di disoccupazione, ma al 25% su quella giovanile. Vi preoccupa il fatto che nel governo, stando a quello che leggiamo, poi magari le cose sono un po' rientrate, ma si stiano generando delle tensioni e obiettivamente molti notino un rallentamento dell'attività di innovazione con cui era apparito Monti, come a dire, superata la fase dell'emergenza, che in realtà non è superata, si torna all'Italia delle lobby, dei veti incrociati? Il governo ha avuto grande coraggio sulla riforma della previdenza. Noi un anno fa, per l'appunto, qui da Santa Margherita lanciammo la proposta di rivedere la previdenza, prima di tutto per riequilibrare i rapporti tra generazioni. Su questo ha avuto grande coraggio e grande rapidità. Ecco, lo stesso tipo di coraggio e di rapidità ce la saremmo aspettata per quanto riguarda il lavoro e soprattutto lo sviluppo. Siamo ancora qui che attendiamo. Oggi lei ricordava che c'è il rischio che la protesta civile esondi. Sulla base di quale elemento lo dice? Beh, molto semplicemente, noi, al di là di trovarci in queste occasioni di confronto con tanti colleghi, ricordo i giovani imprenditori italiani, sono oltre 13.000, quel convegno partecipano circa 2.000, tutti i giorni siamo in azienda, in fabbrica con i nostri collaboratori, quindi non è che veniamo su Marte. E sentiamo che le persone che sono state bravissime finora ad affrontare sacrifici, a stringere denti, sono arrivati veramente vicino al punto di rottura, perché non vedono un progetto per il futuro. E questo è fondamentale invece che chi ha responsabilità di leadership politica in Italia o in Europa dia. Su questo, lei ha anche detto questa mattina, prendo i lavori, la politica rifletta sugli errori fatti. Voi l'ottobre scorso a Capri decideste di non invitare i politici, venne, se non ricordo male, visto che avevamo in diretta anche noi, solo Maroni, al tempo ancora ministro dell'interno, ma come visita privata, per ascoltare. Voi diceste, in realtà, se vogliono venire vengono per ascoltare. Quest'anno i politici ci sono, come mai? Beh, per quello che dicevo prima, adesso c'è bisogno di dare delle risposte, visto che ci sono tre partiti che in una formula piuttosto inusuale, no? Lo stesso Presidente del Consiglio definisce il governo, questo strano governo, visto che lo sostengono, devono dire in maniera chiara, noi faremo domande scomode, come ho detto, non di cortesia, che cosa hanno intenzione di fare da qui ai prossimi mesi, ma ripeto, per il futuro dell'Italia. E quindi posso fare una domanda, anzi la faccio perché tanto le domande cattive sono il mio forte, ma bisogna. Non è che li avete invitati perché sono tecnici? No, questi politici che abbiamo invitato non sono assolutamente tecnici, perché avremo il segretario del PDL... No, parlavo dei membri del governo, chiaro, ma i membri del governo li avete chiamati in quanto tecnici, non in quanto politici. Diciamo che ogni governo, allora se mi vuoi scalzare da questo punto di vista, per definizione è un governo politico, perché prende delle decisioni politiche. Poi quello che è il percorso precedente fa parte della storia personale di ciascuno. E invece sulla parte che riguarda gli esponenti del PD, Letta e Alfano, e PDL Alfano? E Casini. Loro sono politici e a loro, visto che poi alla fine il governo propone, ma è il Parlamento che approva, vogliamo capire con maggiore chiarezza che cosa hanno intenzione di fare. Mi dica una cosa, che cos'è che, insomma, se fossero qua, ogni tanto li abbiamo avuti anche in questa occasione, ma se fossero qua Alfano, Letta e Casini, cos'è che gli chiederebbe, al di là di un insieme di richieste più articolate, la prima, l'emergenza, la priorità? Ma guardi, la priorità in questo momento è fare in modo che venga abbassata la pressione fiscale sul reddito dal lavoro. E per fare questo c'è bisogno di, dall'altro lato, di ridurre il perimetro dello Stato, soprattutto per quanto riguarda lo spreco di denaro pubblico e di spesa improduttiva. Tra l'altro, su questo, sull'abbassamento, lei ha oggi ricordato nel convegno di apertura, 285 ore l'anno servono per pagare le tasse. Non c'è solo il tema della pressione fiscale, ma c'è anche, diciamo, la pressione sulla pressione fiscale. La burocrazia da questo punto di vista. C'è stato un passaggio sia da parte sua che del presidente Squinzi, lo abbiamo sentito Squinzi, sul terremoto. Ora io non ho nessun problema a dire, ma non perché siamo qui in casa di Confindustria, l'abbiamo detto in diretta più volte, che mi ha particolarmente fatto arrabbiare una certa reazione dopo lo secondo sciame sismico, in cui sembrava, un giornale c'è anche aperto forse in questo modo, insomma, i morti sono arrivati perché gli imprenditori avevano riaperto i capannoni, non tenendo conto del fatto che nei distretti industriali in filiera si blocca una parte della filiera, si blocca tutto il distretto, e quindi la voglia di tornare a riaprire è una voglia naturale. Meno male che in Italia c'è qualcuno che ogni tanto, no, non aspetta e si rimbocca le maniche. Mi dà un commento su questo, perché a me è sembrato che serpeggiasse di nuovo un certo atteggiamento anti-impresa, perché quelli lì che avidi vogliono fare i soldi obbligano gli operai a entrare nel capitale. Senta, più che commenti le parlo di fatti. Noi abbiamo in questo momento una delegazione qui al convegno di giovani imprenditori dell'Emilia Romagna, perché gli faceva piacere esserci, certo. Ma la maggioranza, e fa bene, fa il suo dovere, è a lavorare spalla a spalla dei lavoratori, della gente, per rimettere in moto subito la regione. L'Italia credo debba ammirare tutta, guardare con grande ammirazione quello che sta facendo l'Emilia-Romagna. E poi, per quanto riguarda, non mi sottraggo alla domanda, le imprese, ma vede, un imprenditore una volta che erige in questo caso degli stabilimenti in una zona che fino all'altro giorno era considerata a basso rischio sismico, con tutti i permessi dati dai tecnici e le abilitazioni, vigili del fuoco, genio civile e così via, chiaramente oltre questo non è che a sua volta è un tecnico di statica o di sistemi sismici. Quindi noi lo diciamo e lo ribadisco, la sicurezza è prima di tutto, quindi figuriamoci se vogliamo mettere a rischio, a repentaglio la vita dei lavoratori. E tra l'altro le vite, francamente, sono tutte con uguale dignità. Purtroppo in questa tragedia sono morti appunto lavoratori, imprenditori, sacerdoti. Assolutamente. Il resto sul tema, perché nella seconda ora del programma avremo, come ogni venerdì, anche alcune delle lettere che stanno arrivando a Disperati Mai. Ne sono arrivate qualcosa come 2000 a settimana, che è un'iniziativa che voi conoscete bene, che abbiamo lanciato con Oscar Giannino e poi con tutta la radio. Anzi, molti complimenti, perché... Grazie, i complimenti deve farli a chi resiste. Noi ci abbiamo messo solo la voce. Però su questo, lei si ritiene fortunato, o meglio, è più fortunato di molte lettere che riceviamo, Che cosa si sente di dire? Noi abbiamo letto di tutto, dal piccolissimo imprenditore con 8 dipendenti all'artigiano, e i casi, come lei saprà, sono sempre da un lato la doppia tenaglia Equitalia e credito bancario che manca, dall'altro anche una difficoltà nel vedere il futuro, nel capire, stringere la cinghia e tirare avanti per quale motivo. Che cosa gli viene in mente, che cosa si sente di dire? Beh, riprendo il titolo della vostra trasmissione, disperati mai, nel senso che qualsiasi possa essere la gravità della situazione, anche in questo momento il nostro paese, bisogna ricordarsi che noi abbiamo attraversato, per fortuna molti di noi se ne sono dimenticati, poco più di 60 anni fa la tragedia della guerra. Se una generazione, i nostri nonni e i nostri padri, ha saputo resistere appunto alla guerra, alle bombe, all'invasione, e da lì in un paese distrutto è ricostruito trasformandolo da agricolo in una grande potenza industriale, non vedo perché non ce la possiamo fare noi. Certamente in questo momento ci sono tantissime situazioni di lavoratori e di imprese che non possono essere lasciate sole, però non per questo bisogna, ripeto, mettere mai a repentaglio il bene più prezioso, che è poi quello della propria vita. E visto che ne stiamo parlando, poi vi torneremo, ricordo anche che centinaia di lettere scritte dai parenti segnalavano il danno, il dramma che si genera poi nella famiglia che tu lasci, per cui attenzione, non c'è situazione economica, lo diciamo spesso, piuttosto fallite, non pagate le banche, non pagate lo Stato, fate qualunque cosa, ma non ha nessun senso lasciare nella disperazione e nel lutto poi i familiari. E da questo punto di vista, nel chiudere questa intervista e nel ringraziarla, Morelli, le dico una cosa che forse per impegni di lavoro le è sfuggita: una delle cose più belle che noi riceviamo continuamente con queste lettere è il ricordo e anche la sottolineatura del ruolo che hanno avuto le mogli e le figlie, cioè che l'unica figura che sta vicina a questi imprenditori, mi dispiace dirlo, è stata la figura femminile. C'è una lettera bellissima che forse riprenderemo, in cui dicevo un grazie a tutte le nostre donne per averci saputo sorreggere in quei momenti, questo perché la dice lunga sulla disperazione. Grazie, buon lavoro a Jacopo Morelli, a presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Adesso dai temi del convegno ci spostiamo alla borsa, prima però che ricordo ha chiuso con un meno 0,70% come Parigi, Francoforte invece meno 0,30%. minuti di nuovo in diretta. Allora, la borsa di oggi meno 0,70% nel finale dopo due sedute positive, e qualche realizzo ci può stare, realizzo insomma in questo periodo è una parola grossa, però il venerdì bene i titoli dell'energia, tutti presi, anche Telecom, male oggi le banche. Il caso più interessante però a mio avviso, ripeto, è la Spagna, dove le attese per una richiesta di aiuti di Madrid all'Europa fanno crescere l'indice IBEX dell'1,77%, il miglior borsa oggi in Europa. La borsa. Energia, Enel Green Power più 4,13%, Enel più 3%, A2A più 1,14%, Snam più 1%, Terna più 1%, citiamo, ma non nulla c'entra con l'energia, anche Telecom Italia più 2,90%. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo visto il prezzo del petrolio comunque scendere anche oggi, ma vanno bene tutti i titoli legati al settore energetico. In questo caso forse non tanto per il petrolio, ma per le energie rinnovabili. Sì, esattamente, sono soprattutto le utilities o comunque anche le società attive nel settore delle rinnovabili che oggi sono andate bene, un po' per le loro caratteristiche difensive in una giornata in cui hanno prevalso le vendite, quindi questi titoli vengono spesso al contrario premiati, e poi da altre parti per notizie positive appunto sul fronte delle rinnovabili. La conferenza unificata Stato-Regioni ha infatti approvato i decreti ministeriali sulle fonti rinnovabili, chiedendo alcune correzioni azioni che vanno nella direzione richiesta proprio dalle società del settore, quindi si va verso probabilmente un aumento delle risorse per finanziare gli incentivi, e questo naturalmente ovviamente è una notizia positiva per le aziende attive nel settore. Come ricordavi tu, la migliore è stata oggi tra le blue chip milanesi e nel Green Power, ma anche Enel è andata bene, e la stessa Terna più 1,02%. Bene anche Snam, mentre a supporto di quanto stavi dicendo segnaliamo che Eni ha perso lo 0,60%, quindi chi è legato più al petrolio oggi non è andato così bene, bene invece appunto Enel Green Power, Enel A2A e Snam più 1%, ha dato il mandato a un pool di banche per un finanziamento da 11 miliardi, è un passo in avanti verso la separazione definitiva dall'Eni, e di questo ha parlato oggi Paolo Scaroni, ministro delegato dell'Eni, sempre qui a Santa Margherita, a margine del suo intervento, centrandolo però sul 22% di Snam Rete Gas che Eni deve ancora cedere. Sentiamo al microfono la nostra Anna Marino. Stiamo riflettendo, siamo in una fase riflessiva in questo momento, perché diciamo l'operazione è così recente che dobbiamo studiare quali sono le opzioni migliori. Qui lei sta parlando della quota in eccesso, naturalmente sì. Credo che arriveremo a una strategia nel giro del mese di giugno, quindi ci diamo ancora una quindicina di giorni. Così appunto Paolo Scaroni. Il titolo, Paolo? Sì, il titolo di Snam ha guadagnato appunto l'1,03%, appunto di ieri sera la notizia di questo mandato a 11 banche per un finanziamento da 11 miliardi, un prestito che consentirà la copertura dei fabbisogni della società, compreso il rifinanziamento del debito che ha attualmente verso Eni. Quindi proprio Snam ha sottolineato che è un passo avanti verso l'indipendenza nei confronti di Eni, e il mercato ha accolto positivamente la notizia. Adesso devo dare una risposta, un sms al 349-238-6666, perché io capisco che questo sia un paese in cui i professori universitari fanno avanzare in alcuni casi i preti, se non ricordo male, su tutti, la Sapienza, i figli, le mogli, i parenti, che appunto Lombardo abbia messo la moglie del consigliere al posto del suo ruolo nella presidenza di Italia Sviluppo Sicilia e quant'altro, però... Ma come vi viene in mente di chiedermi se Deborah Rosciani è mia moglie? Non perché non potrebbe essere, ma non è che a Radio 24, per fortuna, insomma, ragioniamo che quando non ci sono io il programma lo do a mia moglie, poi... E allora Simone Spezza cos'è? Mio figlio? Il figlio mio di Deborah Rosciani? No, non funziona così adesso obiettivamente. Deborah Rosciani è bravissima, è anche una bravissima persona, è molto brava a condurre, ma non è obiettivamente mia moglie, non che io sappia e neanche che sappia lei. Non, diciamo, non è che il familismo morale si applichi per fortuna dappertutto. Andiamo avanti invece seriamente. Fondiera Sai e la cosiddetta galassia Ligresti, a me sembra più un buco nero con il miliardo e quattro che hanno di rosso. Comunque, Fondiera Sai. Oggi tutti i titoli sono andati benissimo, soprattutto appunto Fondiaria Sai più 11,58%, ma anche Premafin più 9,08%, questi due sono i migliori. E la notizia di oggi è che è arrivato un rilancio da parte della cordata Sator Palladio, che è la cordata che si contrappone all'ipotesi di una fusione con Unipol, un'offerta migliorativa, e ovviamente questo ha innescato la speculazione sulla battaglia in corso proprio per il controllo della società. I vertici di Fonsai dicono comunque di stare procedendo nei colloqui e nei contatti per andare verso la fusione con Unipol, ma in attesa di novità oggi i titoli sono stati appunto al centro della speculazione. Inoltre c'è un'altra voce che riguarda la controllata Milano Assicurazioni, che però sul finale ha ridotto i guadagni al 4,33%, che secondo molti potrebbe finire in vendita alla fine della fusione. Sono iniziati a circolare i nomi di possibili interessati, tra cui il fondo e Permira, e quindi anche questo ha sostenuto oggi i titoli della galassia. Telecom Italia, poi nella seconda parte del programma dopo il GR faremo anche i titoli bancari. Telecom Italia più 2,90%, mi sembra una reazione, cioè come se il mercato avesse ascoltato le parole di Franco Bernabè ieri, quando ha detto a questi prezzi anche Telecom è scalabile. Ormai i prezzi delle azioni sono così bassi che perfino un colosso come Telecom può essere scalato facilmente. Qualcuno gli ha creduto? Sì, certo. fatto è quello di Bernabé, era un discorso generale proprio e anche soprattutto un invito alla difesa delle aziende, dei gioielli italiani, però sicuramente sentirgli dire che Telecom potrebbe essere una preda in una possibile acquisizione da parte di gruppi esteri, oggi in borsa qualcuno ha scommesso sulla speculazione che sarebbe innescata dopo queste parole e quindi ha spinto Telecom a rialzo, il titolo era già positivo da 2 o 3 sedute dopo un trend negativo invece in precedenza, oggi però il rialzo è abbastanza significativo visto anche la generale debolezza del mercato. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per qui dagli studi di Radio 24 a Santa Margherita Ligure, 42esimo convegno dei giovani imprenditori. Per concludere, dicevo, l'approfondimento di borsa e poi passare ai temi che riguardano ancora una volta l'Europa, ma che scaturiscono dall'America. Ha parlato poco fa infatti Barack Obama di nuovo sull'Europa, definendosi preoccupato per la situazione in Europa. Comunque, Paolo Paronetto. Mancavano i titoli bancari, oggi in sofferenza, non in Spagna ma in Italia, Monte dei Paschi meno 3,93%, Banco Popolare meno 3,60%, Intesa meno 3%, Mediobanca meno 2,42%, Unicredit meno 2,40%, Popolare Emilia Romagna meno 2,30%. Esattamente, oggi i titoli delle banche sono tutti hanno chiuso tutti in negativo, proprio i timori sono quelli della necessità di un salvataggio europeo della Spagna e delle banche spagnole, inoltre dopo appunto 4 sedute positive all'inizio della settimana oggi sono anche scattati un po' di realizzi. Tra i titoli c'è inoltre un caso particolare che è quello della Popolare di Milano che in realtà sul finale è stata addirittura tra le migliori, ha perso l'1,1% e ieri è stata pubblicata la lettera dei nuovi vertici della banca che sono molto critici nei confronti della passata gestione e dopo le notizie ovviamente riguardanti gli arresti domiciliari a Massimo Ponzellini e le indagini anche al direttore generale, ex direttore generale Enzo Chiesa, Bonomi e il consigliere delegato Montagna hanno definito mio per la passata gestione e inoltre hanno ribadito che ci sono fenomeni clientelari che mettono a rischio l'esistenza stessa della banca. Oggi il titolo ha perso l'1,1% ma la Popolare di Milano rimane sotto i riflettori del mercato. Tra l'altro di banche ha parlato oggi nell'ultima giornata del convegno della fondazione dell'ACRI, quindi delle fondazioni bancarie a Palermo, ha parlato il presidente dell'ABI Giuseppe Musseri, ne ha parlato con la nostra Raffaella Calandra che era lì inviata a seguire i lavori e gli è stato chiesto soprattutto se le banche non possono fare un po' di più, un po' tanto di più per sostenere le nostre imprese. Chiaro che oggi la richiesta delle imprese è per finanziare attività corrente, cioè non abbiamo domande di investimenti a cui si dice di no, perché non c'è domanda di investimenti purtroppo. È chiaro che finanziare l'attività corrente deve avere un limite, perché poi se eccediamo con gli squilibri della leva corriamo dei rischi. Noi non prestiamo soldi nostri, prestiamo soldi dei risparmiatori. Mi sembra che il clima vada lentamente migliorando, il bollettino della Banca d'Italia del mese di aprile, mi sembra, se non ricordo male, parlava proprio sulla ricerca fatta dal Sole 24 Ore sulle aspettative di un clima che poteva migliorare. È chiaro che stiamo dentro una fase complessa in cui si devono comprendere le ragioni delle imprese, ma se perdiamo la bussola sulla sana e prudente gestione, quindi sull'equilibrio delle banche, poi i guai possono essere veramente gravi. Secondo lei bisognerebbe, il governo deve accelerare sulla crescita anche per riattivare questo meccanismo? Guardi, la crescita non si fa per decreto. Il tema vero è la stabilità e il rischio dei debiti pubblici europei. Allora, si ritiene che gli sforzi finora fatti dall'Italia per riequilibrare i propri conti pubblici siano solidi, siano giusti. Oggi c'è il tema come quello che salta, no? Oggi è lo slancio, la crescita, superare l'ostacolo. Nel fare questo sforzo è possibile avere un sostegno comunitario che sia connesso agli sforzi che facciamo, non libero e poi ricominciamo a fare quello che facevamo prima. se non c'è questo diventa un problema. E secondo lei in questo momento non è ancora sufficiente l'aiuto comunitario anche nei confronti dell'Italia? Cioè sembrava che... Non c'è, noi quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto da soli, punti a capo, cioè non... Però io non parlerei di aiuto, cioè la comunità nel suo complesso vuole mantenersi tale, il 70% delle esportazioni di un solo paese verso il resto dell'Europa si vogliono mantenere tali? Cioè, gli Stati Uniti sono preoccupati dal fatto che si riduca il flusso di esportazioni verso l'Europa. Si pensa che si riducano solo quelle degli Stati Uniti? Domande. Domande, dice Mussari, e anche risposte ogni tanto vorremmo, ma è chiara la preoccupazione del mondo bancario per l'atteggiamento tedesco. Dicevo che ha parlato di Europa poco fa anche Barack Obama. Intanto ringrazio Paolo Paronetto per il commento di borsa, vi do rapidissimamente solo i migliori e peggiori. Acegas APS più 3,14%, qui c'è in ballo. Paolo è ancora in collegamento? Io sono qui. Dico, Acegas APS, c'è in ballo un'ipotesi di fusione, no? Sì, una fusione male. Con la bolognese era, lunedì dovrebbe essere assegnata l'esclusiva per sono le trattative. Più 12,14%, di Fondiaria SAI e Unipol abbiamo già detto, più 11,60, più 10,26, più 10 anche sul risparmio, Premafin, la finanziaria della famiglia Ligresti che controlla ancora il gruppo, più 9%, il peggior titolo invece è stato Borgo Sesia, meno 8,22, Mittel, meno 6,70 e poi France Telecom, meno 5,40%. Grazie Paolo Paronetto e buon fine settimana a tutti i colleghi di Radio Cori, sole 24 ore, adesso spostiamoci dai mercati europei ai ragionamenti sull'Europa che provengono ancora una volta nell'arco di 3 giorni dagli Stati Uniti. Barack Obama poco fa, l'Unione Europea preoccupa e rischia una nuova recessione in seguito alla crisi del debito. Che la Grecia resti nell'area euro è interesse di tutti. Frau Merkel. E poi, sempre presidente americano, l'Unione Europea deve rafforzare il suo sistema bancario iniettando capitale nelle banche indebolite. Insomma, Schäuble come la pensa su questo, il ministro delle finanze tedesco? E poi l'Europa ha la capacità di gestire la crescita. Right now one concern is Europe. Attualmente una delle nostre preoccupazioni è l'Europa, che sta rischiando una nuova recessione dovuta alla crisi del debito. Tutto ciò ci interessa da vicino perché l'Europa è il nostro maggior partner commerciale. La buona notizia è che si può vincere la sfida e le decisioni sono nelle mani dei leader europei che fortunatamente capiscono la serietà della situazione e che è urgente agire. Ho avuto frequenti contatti con i leader europei, i quali possono prendere decisioni per evitare che il quadro peggiori. Nel breve termine devono stabilizzare il sistema finanziario, immettendo liquidità, al più presto, nelle banche più deboli. Circa la Grecia, è nell'interesse di tutti che rimanga nella zona euro e il Paese deve rispettare degli impegni sulle riforme. Riconosciamo i sacrifici compiuti dai greci e i leader europei sanno che devono sostenerli se decidono di restare nella zona euro. Ma anche i greci devono riconoscere che le loro sofferenze sarebbero maggiori se uscissero dall'euro. Nel lungo termine, il risanamento dei conti pubblici deve accompagnarsi alla crescita dell'economia e dell'occupazione. È dunque positivo che leader come Angela Merkel e François Hollande stiano lavorando sulla crescita, oltre che sui conti pubblici. Le soluzioni ai problemi sono dure, ma esistono. Le decisioni sono difficili, ma l'Europa è capace di prenderle e può contare sul sostegno americano. Allora, così Così poco fa Barack Obama ci ha raggiunto nei nostri studi l'economista Alberto Lesina. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Che insegna al Dipartimento, capo del Dipartimento di Economia ad Harvard, ma in questo periodo poi per un anno sarà visiting professor alla Bocconi. Poi arriviamo anche alle vostre tesi sue di Giavazzi, due diciamo colleghi di Mario Monti che però ogni tanto non lesinano critiche al governo stesso. Mi riferisco alle tesi dell'altro ieri su Corriere della Sera, che le infrastrutture in questo paese non sono la soluzione. Però vorrei un primo commento sulle dichiarazioni di Obama, visto che lei dall'America arriva. Mi sembra che la preoccupazione stia aumentando, forse sembra quasi più consapevole Obama di quello che rischiamo di Angela Merkel, o no? Beh, Obama è molto preoccupato dell'Europa sia per motivi seri, come siamo preoccupati tutti, ma anche perché è un anno elettorale per lui, quindi una recessione, un'altra recessione del mondo in America sarebbe particolarmente grave per lui. Credo che tutti siamo preoccupati per l'Europa, anche Angela Merkel, abbiamo delle visioni magari diverse su come risolverla, ma credo che l'idea che ad Angela Merkel non interessi nulla dell'Europa, che non sia preoccupata, sia un po' così, diciamo, semplicistiche. E se le dicessi invece, sempre in tema di semplicismo, che anche questa volta si rischia, o meglio, l'America rischia di salvare l'Europa dalla Germania? Direi che è semplicistico, io penso che l'America non possa fare molto questa volta per salvare l'Europa dalla Germania, penso che l'Europa si debba salvare da sola, e penso che l'Europa abbia fatto l'euro e abbia fatto un'unione monetaria senza mettere i puntini sulle i su parecchie cose, tra cui il fatto che certi paesi forse non dovevano essere parte dell'unione monetaria, a partire dalla Grecia, c'è stata molta confusione su quella che doveva, sulla l'esistenza o meno di un'unione fiscale e che tipo di unione fiscale, siccome erano problemi difficili, politicamente difficili, sono stati messi sotto l'uscio. Ma io credo che, se mi permette, il tono delle sue domande antitedesche non aiutano. No, non ho nessun problema a dire che in questo momento non ce l'ho mica con la Germania, grandissimo paese. Lo che vuoi, però la posizione tedesca in Europa la trovo folle. Sì, ma scusi, ma se ai contribuenti lombardi venisse chiesto, guardate, voi dovete pagare più tasse di quelle che già pagate perché bisogna salvare la Grecia. Io non penso che i lombardi si comporterebbero molto diversamente dai tedeschi. Allora, alla fine dietro tutte queste complicazioni finanziarie, eccetera, eccetera, si arriva a questo: chi deve pagare per errori di certi paesi. Ora, che i tedeschi siano forse rigidi e che certe proposte potevano anche essere accettabili, certo, ma l'idea che i tedeschi devono pagare per gli errori di altri mi sembra una cosa che è un po' così, è facile essere generosi con i soldi degli altri. No, allora è anche facile rispondere che i lombardi già pagano per il nostro mezzogiorno, pagano più tasse di quelle che ricevono. Siamo abituati, diciamo, in Italia a un minimo di solidarietà, è questo che si chiede. Professor Lesina, è ovvio che io provoco il tema. La Germania ha tutti i diritti di dire che la Grecia ha toccato i conti, che l'Italia ha speso male i soldi nel periodo delle vacche grasse, che la Spagna ha mal gestito le bolle immobiliari. Il problema è cosa facciamo adesso, cioè punire va bene, umiliare no, e poi come ne usciamo? Vorrei la sua idea su questo, su quale accordo deve arrivare entro il 27 di giugno, se poi i tedeschi vogliono imparare dai lombardi, dai veneti e da chi paga abitualmente più tasse di quello che riceve come servizi, noi siamo qui a dimostrarlo, perché si tiene assieme un paese, delle volte anche sbagliando, anche con degli sprechi, anche con delle inefficienze. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Barigioni. Dunque, professore Lesina, al di là del fatto che meno male che la vediamo anche diversamente su Germania e altre cose, però mettiamola così, gli errori sono stati fatti in primo luogo dalla Grecia, Barack Obama, hanno ragione alcuni ascoltatori, dovrebbe anche dire qualche parolina sulle riforme non fatte in America tra banca d'affari e banca commerciale, cioè quello che ci ha portato a questa bellissima crisi nel 2008, e magari avere lo stesso coraggio anche con le lobby di Wall Street che non gliela fanno fare. Però detto questo, così tengo bassa la polemica, detto questo, diciamo, la Grecia ha sbagliato, l'Italia ha sbagliato, la Spagna ha sbagliato, la Germania a mio avviso ha sbagliato, perché potevamo salvare la Grecia pur punendola e commissariandola due anni fa, ci sarebbe costato molto di meno. Ma adesso come ne usciamo? Due cose, prima della pubblicità, del lato collegamento, lei mi diceva ma i lombardi pagano per cioè siamo dentro un paese siamo abituati a esatto, ma questo è esattamente questo il punto cruciale, che dentro un paese siamo abituati, l'Europa non è un paese federale, no? E volendo possiamo illuderci che lo sia, ma non lo è, anche negli Stati Uniti, che so, il Massachusetts paga per i paesi, per gli stati più poveri del sud, ma l'Europa non lo è, questa confusione è quella che ha creato tutte le complicazioni. Detto questo, sono perfettamente d'accordo con lei che la Grecia è stata una commedia di errori, si sarebbe dovuto o fare un default ordinato fin dall'inizio o imporre delle condizioni più realistiche sulla Grecia o fare qualcosa e non due passi avanti e uno indietro. Quindi credo che ci sia stato un fallimento complessivo della governance europea, non solo della Germania. Ora, su quello che fare per andare avanti, a me questa proposta che è uscita di fare un fondo che porta il 60% tutto il debito al di sopra del 60% viene messo in un fondo europeo comune con delle garanzie europee, che però è sempre un debito dei vari paesi, però con garanzie europee, è un'idea secondo me promettente, che è stata accettata anche da una buona parte dell'opinione pubblica tedesca, non dalla Merkel ancora. È un'idea che va studiata, applicata bene, perché ci sono dei rischi, ma credo che sia una mossa che va nella direzione giusta, una proposta che va nella direzione giusta, e c'è qualche speranza che anche i tedeschi l'accettino. Però su questo e sul fatto che appunto c'è una parte dell'opinione pubblica tedesca che si sta spostando obiettivamente, poi Angela Merkel ha dei problemi elettorali non da poco in casa sua. C'è però un altro aspetto. Lei, nell'articolo che citavo su Corriere della Sera con Francesco Giavazzi l'altro ieri, ha criticato l'ipotesi che i finance bond, cioè delle obbligazioni, tutti i soldi spesi da uno Stato per fare infrastrutture, non vengano conteggiati nel deficit. Questa è una delle ipotesi sul tappeto, perché, adesso sintetizzo in maniera un po' anche qui semplicistica, perché dice l'Italia non ha bisogno di infrastrutture, se il PIL è basso, anche se tu fai due autostrade in più, le merci tanto non le hai lo stesso. Ma siamo così sicuri che, forse sarò troppo keynesiano, che invece partire con dei lavori pubblici non sia la cosa più veloce per dare un po' di fiato all'economia? Perché le riforme vanno bene, professor Lesina, ma ci mettono anni per passare, o no? E anche per sviluppare i loro effetti. A parte che anche le infrastrutture ci mettono anni per essere concretizzate. E poi allora facciamo l'esempio ancora più estremo: perché costruire strade? Mettiamoci a fare buchi, poi riempirli. Era quello che diceva Keynes, e Roosevelt ha fatto, e l'America è uscita dalla recessione. Beh, sarebbe un discorso molto, molto, molto. A prescindere dal fatto che ai tempi di Roosevelt, questa è una cosa che va ricordata, il peso dello Stato nell'economia era tipo il 15% del PIL negli Stati Uniti. Qui siamo al 50% del PIL. Cosa vogliamo arrivare? Al 60% del PIL con le tasse già che abbiamo. Quindi questo, secondo me, non è questa la strada. Se si vuole stimolare l'economia bisogna fare esattamente l'opposto: ridurre le imposte ai cittadini contenendo la spesa. La riduzione delle imposte sì che va subito in circolo, perché la gente ha più soldi e ne spende. Quindi secondo lei in questo momento la vera misura anticiclica, quindi contro la recessione, sarebbe una misura fiscale, cioè quella più immediata da fare, secondo me, è fare dei tagli dei prima di tutto non credo che sia possibile per l'Italia, purtroppo, e questo è un dato di fatto, sia sbavare molto dal rigore di bilancio, perché sennò ripartono gli spread e poi il debito costa di più ed è ancora peggio. Quindi purtroppo, e questo è un fatto della vita, siamo costretti ad avere un bilancio solido, ma se vogliamo stimolare, e tra l'altro le infrastrutture costano, quindi se vogliamo stimolare la crescita, credo che l'unica cosa da fare dal punto di vista fiscale è cercare di ridurre le aliquote per i contribuenti contenendo la spesa. Grazie ad Alberto Alesina per una visione appunto diversa dalla nostra, ma ospiteremo anche, lo dico a chi sta scrivendo, anche persone economisti che danno ragione alla Germania. In questo programma c'è spazio per tutti, grazie Alberto Alesina. E adesso... Allora, siamo qui dai giovani imprenditori, e anche i giovani imprenditori che ci ascoltano vogliamo leggere una lettera oggi, non abbiamo più spazio, ma una lettera ve la voglio leggere, anche perché prima ricordavamo con Jacopo Morelli quante lettere abbiamo ricevuto di imprenditori in difficoltà che dicono grazie alle loro mogli, questa è leggermente diversa. Buongiorno. La mia agenzia immobiliare è nata nel 1994. Tra alti e bassi, per problemi di salute e a causa di eventi funesti di persone a me care, sono entrata in depressione. Circa 10 anni fa però esco da questa depressione e torno a vivere. Dal 2009 mi trovo in una situazione allucinante. Il mercato fermo e quelle poche pratiche portate avanti con molta difficoltà non mi permettono nemmeno di pagarmi le spese. E allora comincio a utilizzare i miei soldi personali per pagare lo stipendio alla mia impiegata storica, che nel frattempo entra in maternità, e mi ritrovo a doverla sostituire pagando due stipendi e contributi. Così mi ritrovo al collasso. I miei soldi personali finiscono. Nel 2010 ho un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate che mi crea un disagio psicologico enorme. Tra mille difficoltà riesco a dimostrare che non sono un evasore fiscale, perché loro partono sempre dal presupposto che tutto quello che dico è falso e per il contribuente corretto è una forte batosta alla propria dignità. Ho cominciato a non dormire, a soffrire di ansia, non mi davo pace, alcuni assegni non mi venivano accettati malgrado io potessi portassi scontrini e fatture, si attaccavano alle date, sino a che non mi arriva la cartella esattoriale da parte di Equitalia da 8.000 euro, per me è una cifra enorme in un momento in cui non ho più risorse. Riesco ancora ad avere uno sgravio ed è ora di 4.300 euro, una cifra per me ancora impossibile. Il mio sogno non è vincere all'Enalotto, ma essere serena. Vorrei dormire almeno 8 ore di seguito a notte. Ormai sono anni che se ne dormo 3-4 dire tanto. Vorrei tornare a ridere, vorrei che le rughe impresse sul mio volto non fossero di un triste sorriso, ma di una persona serena. Maledico il giorno in cui ho aperto questa agenzia. Ormai per me è diventato il mio incubo quotidiano. Mi sento in gabbia, prigioniera di debiti che non mi fanno chiudere occhio, e ho la consapevolezza che più me la mantengo in vita e più mi affossa e mi indebita. Sono arrivata a circa 80.000 euro di debiti. Ringrazio però mio marito, che mi mantiene da 4 anni, perché la mia ditta non mi dà più nulla, nemmeno i soldi per fare la spesa. Ringrazio lui che mi sostiene. Non ci fosse lui, a quest'ora avrei fatto un'altra scelta. Sarebbe stata molto dura trovare uno stimolo di vita. E allora grazie anche a tutti i mariti di donne imprenditrici disperate. Da Sebastiano Barigioni, l'auguro di un buon fine settimana. Comunque un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.